Boh, niente, noi abbiamo conosciuto il progetto Critical Wine, che è anche un libro che, di cui adesso parleranno meglio chi da tempo si occupa di questa cosa, a Leoncavallo qualche anno fa, e ci siamo trovati subito in sintonia, perché le cose che si dicevano erano cose che sentivamo molto vicine. E da lì l'idea di trasportare sicuramente la presentazione di quello che era quell'esperienza, ma sicuramente di dare una connotazione legata alle specificità di questo territorio. E da lì è partita l'idea di fare questa iniziativa qua. Lì abbiamo incontrato persone come Gabriele, come Dario, che sono agricoltori da anni su questo territorio, e c'è stata la volontà di costruire questa iniziativa qua. E ringraziamo sicuramente tutti i produttori che ci sono stati e ci hanno creduto. E niente, non lo so, io mi piacerebbe che fosse un dibattito abbastanza tranquillo, iniziando appunto dall'esperienza del progetto libro Critical Wine, e poi magari riuscire ad andare a parlare di questo territorio, che magari è un po' strano, nel senso che è alle porte di Milano, ma è collegato tra due parchi, il Parco Agricolo Sud e il Parco del Ticino. Ci sono tante storie, è inutile che parlo io che non sono molto bravo, è meglio che parla qualcun altro e vediamo un po' come va, insomma.